ся. Avevo cara questa zona. Ella è endoida, ella è maluca, ella è ladrona. Seu polícia. Avevo cara questa zona. Ela é maluca, ela...